ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. 24 luglio, venerdì mattina alle 7:30. Voglio studiare intensamente per un'ora prima che cominci questa giornata. Ne sento un gran bisogno e ho anche la concentrazione necessaria. Stamattina presto, quando le preoccupazioni mi hanno assalita un'altra volta, mi sono alzata. Mio Dio, allontanale da me. Non so che farò se gli toccherà di partire per un campo. Non so che strade percorrerò per lui. Una cosa è certa. Dobbiamo accettare tutto dentro di noi. Dobbiamo essere pronti a tutto e sapere che le cose ultime non possono esserci sottratte. Allora, con quella pace interiore, sapremo ben compiere i passi necessari. Non dobbiamo romperci la testa e avere timore, ma pensare con calma e chiarezza. Nel momento in cui dovrò decidere, saprò che cosa fare. Ecco, le mie rose sono sempre lì. Porterò a Yap quella mezza libra di burro. Sono molto stanca. Sono in grado di sopportare questo tempo presente. Lo capisco persino un poco. Se sopravviverò a questo tempo e se allora dirò la vita è bella e ricca di significato, bisognerà pur credermi. Se tutto questo dolore non allarga i nostri orizzonti e non ci rende più umani, liberandoci dalle piccolezze e dalle cose superflue di questa vita, è stato inutile. Stasera usciamo insieme e ceniamo al Café de Paris. Sembra quasi grottesco. Liesel diceva, è certo una grazia che ci sia concesso di sopportare tutto questo. Liesel è una gran donna, è veramente una gran donna. Più tardi mi piacerebbe descriverla. Sì, ce la caveremo. 25 luglio, sabato mattina alle 9. Ho cominciato la giornata in modo stupido, parlando della situazione, come se esistessero parole adatte. Questo dono prezioso, questo giorno libero che ho, devo impiegarlo bene e non mettermi a parlare e a turbare le persone intorno a me. Stamattina voglio nutrire un pochino il mio spirito recalcitrante. Ho sempre più bisogno che mi digerisca le cose. Quest'ultima settimana è stata proprio una grande conferma di me stessa. In quel manicomio io ascolto la mia voce interiore e tiro dritto per la mia strada. Circa 100 persone discutono in un piccolo ambiente. Le macchine da scrivere ticchettano, ma io sono seduta in un angolino e leggo Rilke. Ieri abbiamo improvvisamente traslocato a metà mattinata. Tavoli e sedie ci venivano portati via. Altra gente aspettava e sognava di entrare. Tutti davano ordine e controordini, anche per la sedia più insignificante. Ma Etty era seduta in un angolo su quello sporco pavimento, tra la sua macchina da scrivere e il suo pacchetto di panini, e leggeva Rilke. In quel luogo io mi do le mie norme di comportamento e vado e vengo a parer mio. In mezzo a quel caos e a quella miseria vivo talmente con un ritmo mio che a ogni istante, mentre batto a macchina quelle lettere, posso rituffarmi nelle cose che trovo importanti. Non è un isolarmi dal dolore che ho intorno, non è neppure una forma di apatia. Sopporto e custodisco tutto dentro di me, ma tiro dritto per la mia strada. Ieri è stato un giorno pazzo, un giorno in cui il mio umorismo quasi diabolico è tornato a galla, in cui improvvisamente mi sono sentita di nuovo come un bambino birichino. Dio, fa solo che io non finisca nello stesso campo con i miei colleghi. Più tardi scriverò 100 satire su di loro. E poi, in questa vita restano tante possibilità curiose. Ieri sera abbiamo mangiato un pesce passera fritto, una cosa indimenticabile sia per il prezzo che per la qualità. E oggi pomeriggio alle 5 mi trasferisco a casa sua e ci rimango fino a domattina. Leggeremo e scriveremo un po' e staremo insieme per una sera, una notte e una colazione. Sì, una cosa del genere è ancora possibile. Da ieri mi sento di nuovo così forte e lieta e così senza timore, neppure per lui, libera da ogni preoccupazione. Mi stanno venendo dei gran muscoli alle gambe a forza di camminare. Forse finirò per attraversare davvero la Russia, una volta o l'altra? S dice: è il momento di mettere in pratica il detto «ama i tuoi nemici». E se lo diciamo noi, bisognerà pur credere che sia possibile. Voglio ancora copiare una cosa di Rilke, che ieri mi aveva colpita. Riguarda anche me, come tante cose sue. In me c'è un silenzio sempre più profondo. Lo lambiscono tante parole che stancano perché non riescono a esprimere nulla. Bisogna sempre più risparmiare le parole inutili per poter trovare quelle poche che ci sono necessarie. E questa nuova forma d'espressione deve maturare nel silenzio. Ora sono 9:30. Rimarrò a questa scrivania fino a mezzogiorno. Petali di rosa sono sparsi tra i miei libri. Una rosa gialla si è schiusa al massimo e mi fissa, grande e spalancata. Queste 2 ore e mezzo che ho davanti mi sembrano quasi un anno di isolamento. Sono così riconoscente per queste poche ore e anche per la concentrazione che mi sta crescendo dentro. Luglio 1942. Bisogna essere sempre disposti a rivedere la propria vita, a ricominciare tutto da capo in un luogo diverso. Sono viziata e indisciplinata. Forse voglio ancora godermi troppo la vita in tutte le esperienze che faccio. Nello stato d'animo in cui mi trovo da ieri sera, non posso che dire a me stessa: in fondo sei molto ingrata. Ci sono state tante cose buone in questo fine settimana. Tante cose che potrebbero nutrirmi per settimane, anche se non dovessero toccarmi altro che disgrazie. Ho uno spirito ben poco collegiale verso quelle signorine dattilografe. Trovo che il nostro lavoro è stupido e assurdo e cerco di schivarlo il più possibile. Sono così scontenta e triste e irrequieta stamattina presto, come non lo ero da tempo, e non si tratta in questo caso del grande dolore, ma di piccole scontentezze personali e del mio disadattamento. E sono tanto triste che tutte le cose buone e preziose di questo fine settimana siano morte e sepolte per colpa di una piccolezza, perché una dattilografa un tantino volgare, che vuol far da padrona, mi dice alle 5 di pomeriggio, quando cerco di andarmene alla chetichella: no, non puoi andar via adesso. C'è ancora da battere a macchina quel prontuario, è molto poco riguardoso da parte tua. E siccome con la mia macchina si possono battere solo 5 copie alla volta e ce ne volevano 10, ho dovuto battere tutto 2 volte. Ma tu vuoi tanto andare dai tuoi amici e hai male alla schiena e ogni cellula del tuo corpo si ribella. Hai un atteggiamento sbagliato. Devi pensare che è proprio grazie a quel lavoro che puoi rimanere ad Amsterdam, vicino a coloro che ti sono cari, e te la passi già abbastanza bene. Ieri pomeriggio mi sono resa conto di quanto quell'insieme sia tetro, sconfortante, indegno e senza sbocchi. Chiedo cortesemente di essere esonerato dal servizio di lavoro in Germania perché lavoro già qui con impegno per la Wehrmacht e sono insostituibile. È sconfortante. Eppure io sostengo che se noi non opponiamo a tutto ciò un'alternativa forte e luminosa con cui si possa ricominciare da capo in un luogo del tutto diverso, allora siamo perduti definitivamente e per sempre. Saprò ben riscoprire l'accesso a questa nuova radiosa sorgente. Sono stanca e depressa. Ho ancora una mezz'oretta e potrei scrivere per giorni, fin tanto che non mi sia liberata da tutto ciò che all'improvviso mi angoscia. Ma ora devo andare. Dovrò percorrere molte gallerie sotterranee, strette e buie, per ritrovarmi d'un tratto in un luogo aperto e luminoso. Ieri pomeriggio mi trovavo in un corridoio stretto e affollato, dove per un'ora e mezzo ho aspettato Werner. Ero seduta su uno sgabello contro il muro. La gente mi veniva addosso da tutte le parti. Tenevo il libro di Rilke sulle ginocchia e leggevo. Leggevo, per davvero, con la massima concentrazione. Ci ho trovato delle cose che mi sarebbero potute bastare per parecchi giorni e le ho subito copiate. Più tardi, nel piccolo spiazzo dietro il nostro ufficio, ho trovato un bidone della spazzatura al sole. Mi sono seduta là e ho letto Rilke. E sabato sera l'anello della nostra relazione si è chiuso così semplicemente e così naturalmente, come se di notte non mi avesse mai ricoperta altro che una coperta a fiori. E poi ci sono sempre i canali lungo cui cammino e che imprimo sempre più in me stessa in modo da averli sempre con me. E può una semplice ora di lavoro in più, sia pure di lavoro stupido, insopportabile, privarti di tutto ciò e annullare ogni cosa. Le mie paure sono più profonde e credo che potrei anche rintracciarle, ma ora non ho tempo. Tra poco camminerò di nuovo lungo tutti quei canali. Cercherò di tacere, di dare ascolto a ciò che è realmente capitato dentro di me. Dovrà trasformarmi ancora molto, oggi. Ah, ancora una cosa. Credo proprio di avere come un regolatore interno. Un malumore mi avverte ogni volta che ho preso la strada sbagliata. E se continuo a essere onesta e aperta, se conservo la mia volontà di diventare quella che dovrò essere e di fare ciò che la mia coscienza mi prescrive di fare, di questi tempi, allora andrà tutto a posto. Credo che la vita pretenda molto da me e che mi riservi anche molto, ma devo saper ascoltare la mia voce interiore. Devo rimanere onesta e aperta e non sfuggire a quel sentimento. 28 luglio, martedì mattina, alle 7:30. Lascerò che la catena di questa giornata si svolga anello dopo anello. Io stessa non ci metterò mano, ma avrò fiducia. Lascerò a te le tue decisioni, mio Dio. Stamattina ho trovato uno stampato nella cassetta per le lettere e in quella busta ho intravisto un foglio bianco. Ero molto tranquilla, ho pensato, il mio ordine di partenza. Peccato, ora non ho neanche più il tempo di preparare il mio zaino. Dopo un po' mi sono resa conto che le mie ginocchia tremavano. Era un modulo per il personale del Consiglio ebraico. Per ora non ho neanche un numero di identificazione. Farò quei pochi passi che ritengo di dover fare. Magari dovrò aspettare a lungo. Mi porterò Jung e Rilke. Spero di poter lavorare molto oggi. E se in futuro non sarò più in grado di ricordare tante immagini, mi rimarranno sempre questi ultimi 2 anni e risplenderanno all'orizzonte della mia memoria come un bellissimo paese che una volta era la mia patria e che è sempre ancora mio. La giornata di ieri mi ha dato tanto coraggio. Ho capito che Dio rinnova sempre le mie forze. 1000 fili mi legano ancora qui. Dovrò strapparli a uno e caricare tutto a bordo. Così non lascerò indietro niente quando dovrò partire. Porterò tutto dentro di me. Ci sono dei momenti in cui mi sento come un uccellino nascosto in una grande mano protettiva. Ieri il mio cuore era come un uccello preso in trappola. Ora è di nuovo libero e vola indisturbato dappertutto. Oggi c'è il sole. Preparo i miei panini e mi metto in cammino. Più tardi sarò il cronista delle nostre vicissitudini. Le comporrò in una lingua nuova e le conserverò in me stessa se non avrò la possibilità di scriverle. Diventerò apatica e rivivrò. Cadrò a terra e mi rialzerò, e forse molto più tardi mi capiterà di avere intorno uno spazio tranquillo che sarà tutto mio, e allora ci rimarrò anche un anno, se sarà necessario, fin tanto che la vita tornerà a zampillare e mi verranno le parole giuste per testimoniare ciò che dovrà essere testimoniato. Le 4 del pomeriggio. È diventata una giornata molto diversa da come me l'ero immaginata. Le 8:30 di sera. A parte l'aspetto storico, tanto per dirla freddamente, è stato un giorno di bizzarria, di dimenticanza del dovere e di sole. Ho camminato lungo i canali come se avessi marinato la scuola e sono stata accoccolata in un angolo della sua camera, di fronte al suo letto. Ora ci sono di nuovo 5 rose tee nel vasetto di stagno. C'è differenza fra temprato e indurito. Spesso non se ne tiene conto oggi. Credo di diventare ogni giorno più temprata, a parte quell'indisciplinata vescica, ma indurita non lo sarò mai. Tante cose cominciano a chiarirsi, per esempio, che non vorrei diventare sua moglie. Voglio darne atto, molto spassionatamente e obiettivamente, la differenza d'età è troppo grande. In pochi anni ho già visto trasformarsi un uomo. Ora sta cambiando anche lui. È un uomo vecchio, a cui voglio bene, infinitamente bene, e con cui mi sentirò sempre legata, ma sposarlo, come direbbe un bravo borghese, francamente non lo vorrei. E proprio il fatto di dover percorrere la mia strada da sola mi fa sentire così forte, nutrita di ora in ora dell'amore che provo per lui e per gli altri. Infinite coppie si formano all'ultimo momento per disperazione. Preferisco essere sola e per tutti. Naturalmente, non si potrà mai più riparare al fatto che alcuni ebrei collaborino a far deportare tutti gli altri. Più tardi la storia dovrà pronunciarsi su questo punto. Rimane sempre il fatto che la vita è così interessante in ogni circostanza. Provo un bisogno quasi diabolico di osservare ciò che capita, di vedere, sentire e esserci, anch'io. Di rubare alla vita tutti i suoi segreti, di osservare freddamente le espressioni degli uomini nelle loro ultime convulsioni. E poi mi ritrovo improvvisamente di fronte a me stessa e posso imparare molto dallo spettacolo offerto dalla mia anima di questi tempi. E poi, più tardi, dovrò trovare le parole adatte per descrivere tutto quanto. Leggerò ancora i miei vecchi diari. Non credo più che li straccerò. Forse più tardi mi aiuteranno a riprendere contatto con me stessa. Abbiamo avuto tempo a sufficienza per prepararci agli avvenimenti catastrofici di oggi. 2 anni interi. E proprio l'ultimo è stato l'anno decisivo. L'anno più bello della mia vita. Sono certa che ci sarà continuità tra questa vita e quella che ora verrà, perché è una vita che si svolge interiormente e lo scenario esteriore ha sempre meno importanza. Temprato. Distinguerlo da indurito. 29 luglio. Mercoledì mattina alle 8. Domenica mattina ero accoccolata per terra in un angolo della sua stanza. Avevo addosso la mia vestaglia a righe vivaci e rammendavo delle calze. A volte l'acqua è così limpida che si distingue ogni cosa sul fondo, Potresti dirlo in modo ancor più stomachevole, se la domanda è lecita? Volevo dir questo. Era proprio come se la vita mi apparisse altrettanto chiara e trasparente nei suoi mille dettagli, nelle sue svolte e nei suoi movimenti. Come se avessi davanti un oceano e ne potessi distinguere il fondo guardando attraverso l'acqua trasparente come cristallo. Chissà se riuscirò a scrivere per davvero, una volta o l'altra. Non sembra che lo creda molto, o mi sbaglio? Forse passerà molto tempo prima che io sia capace di descrivere un momento simile, un momento alto nella mia vita. Sei seduta per terra, in un angolino della stanza dell'uomo amato. Rammendi delle calze e allo stesso tempo sei seduta sulla riva di un mare immenso. E questo mare così limpido e trasparente che puoi distinguerne il fondo. A un certo momento tu senti la vita così, ed è una cosa indimenticabile. Ma ora credo proprio che mi stia venendo l'influenza o qualcosa del genere. Non deve succedere, è proibito, per principio. Anche le mie gambette poco allenate sono molto stanche dopo le lunghe marce di ieri. Oggi devo procurarmi documenti d'identità per Werner. Mi pianterò in quella stanzetta al piano di sopra con la stessa cortese fermezza che ho dimostrato ieri per me stessa. È anche ora di andare dal dentista. Ci sarà molto lavoro oggi. Ora vado. Non si sa mai cosa ci possa portare un giorno. Del resto, non importa. Non si deve dipendere da queste cose, neppure di questi tempi. Esagero, forse. E se domani arrivasse il foglio bianco con l'ordine di partenza per me? Pare che le deportazioni da Amsterdam siano sospese. Ora si comincia a Rotterdam. Assistili, mio Dio. Assisti gli ebrei di Rotterdam. Sembra che Etty non abbia tenuto un diario tra il 29 luglio e il 5 settembre. In quel periodo la sua vita subisce un drammatico mutamento. Etty riceve l'ordine di partenza per Westerbrook e parte per il campo. Altrettanto decisive per la sua vita sono l'improvvisa malattia e morte di Speer. All'inizio di settembre Etty ottiene il permesso di ritornare ad Amsterdam per alcuni giorni. Ci arriva malata. In quest'ultimo quaderno rimastoci, Etty scrive della morte di Speer, della propria nostalgia per Westerbrook e di persone e situazioni laggiù. '14 settembre 1942, martedì mattina, le 10:30. Forse è stato tutto un po' troppo. Mio Dio, sono costretta a ricordarmi che un essere umano ha anche un corpo. Avevo creduto che il mio spirito e il mio cuore potessero sopportare tutto da soli, ma il mio corpo si fa sentire e dice alt. Ora mi rendo conto di quanto tu mi abbia dato da portare, mio Dio. Tante cose belle e tante cose difficili. E quelle difficili si sono trasformate in belle ogni volta che ero disposta a sopportarle. E certe volte è stato più difficile sopportare le cose belle e grandi che quelle dolorose, perché ne ero come sopraffatta. Pensare che un piccolo cuore umano possa provare così tanto, mio Dio, possa soffrire e amare a tal punto. Ti sono così riconoscente perché hai scelto proprio il mio cuore di questi tempi per fargli sopportare tutto quanto. Forse è un bene che mi sia ammalata. Non ho ancora accettato questo fatto e mi sento un po' intontita e smarrita e abbandonata, ma sto anche cercando in tutti i modi di mettere insieme un po' di pazienza. Sento bene che per una situazione così nuova ci vorrà una pazienza del tutto nuova. Riprenderò la vecchia collaudata abitudine e di tanto in tanto discorrerò un pochino con me stessa su queste righine blu. Parlerò con te, mio Dio. Posso? Col passare delle persone non mi resta altro che il desiderio di parlare con te. Amo così tanto gli altri perché amo in ognuno un pezzetto di te, mio Dio. Ti cerco in tutti gli uomini e spesso trovo in loro qualcosa di te e cerco di disseppellirti dal loro cuore, mio Dio. Ma ora avrò bisogno di molta pazienza e riflessione e sarà molto difficile e dovrò far tutto da sola. La parte migliore e più nobile del mio amico, dell'uomo che ti ha risvegliato in me, è già presso di te. È solo più rimasto un vecchio consunto e infantile in quelle due camerette, là dove ho vissuto le gioie più grandi e più profonde della mia vita. Ho sostato accanto al suo letto e mi sono trovata davanti ai tuoi massimi enigmi, mio Dio. Dammi ancora una vita intera per poter capire tutto quanto. Mentre scrivo queste cose, sento che è un bene che io debba rimanere qui. D'un tratto mi rendo conto di aver vissuto così intensamente. In due mesi ho consumato le riserve di una vita intera. Forse ho esagerato a forza di vivere interiormente. Non ho esagerato se ora ascolto il tuo avvertimento. Di pomeriggio, le 3. Ecco, l'albero è sempre lì. L'albero che potrebbe scrivere la mia biografia. Però non è più lo stesso albero. O forse sono io che non sono più la stessa persona. E a un metro dal mio letto c'è la sua libreria. Basta che allunghi il braccio sinistro e ho in mano Dostoevsky o Shakespeare o Kierkegaard. Ma non lo farò. Ho un gran capogiro. Mi metti davanti ai tuoi massimi enigmi, mio Dio. Ti sono riconoscente per questo. Ho anche la forza di affrontarli, di sapere che non c'è risposta. Bisogna saper sopportare i tuoi misteri. Dovrei proprio dormire. Per giorni e giorni dovrei lasciare andare tutto quanto. Il medico diceva ieri che ho una vita interiore troppo intensa, che vivo troppo poco sulla terra, anzi, che vivo quasi ai confini col cielo, che il mio fisico non può reggere a tutto ciò. Forse ha ragione. Quest'ultimo anno e mezzo, mio Dio, e questi ultimi due mesi, che da soli sono stati come una vita intera. E non ho forse avuto delle ore in cui ho detto: se dovessi morire tra poco, quest'ora mi è valsa una vita. Ho avuto spesso delle ore simili. E perché poi non dovrei vivere in cielo? Il cielo esiste, perché non ci si potrebbe vivere? O piuttosto, il cielo vive dentro di me. Devo pensare a un'espressione di una poesia di Rilke, spazio interno del mondo. Ora devo dormire e lasciare andare tutto. Mi gira tanto la testa. Non c'è niente che funzioni nel mio corpo. Vorrei guarire presto. Ma dalle tue mani accetto tutto come viene, mio Dio. So che è sempre un bene. Ho imparato che un peso può essere convertito in bene se lo si sa sopportare. Vedi, ho ancora sempre lo stesso problema. Non so decidermi a smettere di scrivere. All'ultimo momento vorrei ancora trovare la formula liberatoria, la parola che esprima il mio ricco, sovrabbondante sentimento della vita. Perché non mi hai fatta poeta, mio Dio? Ma sì, mi hai fatta poeta. Aspetterò pazientemente che maturino le parole della mia doverosa testimonianza, cioè che vivere nel tuo mondo è una cosa bella e buona, malgrado tutto quel che ci facciamo reciprocamente noi uomini. Il cuore pensante della baracca.